Du nan min gani, du nan min gani, du nan min gani blu, du nan min gani, du nan min gani, du nan min gani blu, amore tra di non m'inganni, tu non m'inganni.